Grazie Gianluca, gli facciamo un applauso anche. Grazie al gruppo Lode, siete super, fantastici. E grazie anche a noi che siamo qui stamattina, quindi fai un applauso alla persona che è accanto a te. Girati e fagli un applauso. Bravissimi. Siamo una chiesa meravigliosa. Noemi lo dice sempre. Siete? No, Noemi, che cosa dici? Siete bellissimi. Siamo bellissimi. Sapete, io sono felice di essere qua stamattina e di poterci parlare, perché il 2019 è iniziato da 2 mesi, 10 giorni, 11 ore e 10 minuti. Ed è un anno meraviglioso, vero? È un anno bellissimo e io sono contentissimo di poter far parte di questa chiesa in quest'anno. Sapete perché? Perché se siamo stati qui nelle domeniche precedenti a questa, abbiamo potuto ascoltare qualcosa che il pastore stesso, guidato da Dio, ci ha dato come visione per quest'anno. Qualcosa di meraviglioso. La visione di quest'anno della nostra chiesa è di gloria in gloria. Se c'era il pastore, doveva essere orgogliosissimo, dire: oh, la mia chiesa conosce la visione per la quale noi ogni attività, ogni domenica, ogni cosa che facciamo, ci spendiamo in energie, in tempo, in forze. Noi siamo qui quest'anno per crescere di gloria in gloria. Questo è quello che vogliamo fare quest'anno e questo è quello che faremo oggi. Noi non vogliamo lasciare che questa visione di gloria in gloria sia una bella predica fatta dal pastore 55 giorni fa, ovvero il 14 gennaio, e tu puoi andare a rivedere questa predica sul nostro canale YouTube, ok? Non vogliamo che rimanga solo una bella predica, ma vogliamo che tutto questo diventi pratico, reale, efficace per la nostra crescita, innanzitutto personale. Perché se tu cresci, la Chiesa cresce. Perché la Chiesa è un insieme di individui. Dio non guarda, ah, che bel gruppo c'è qui, fantastico. Questa Chiesa crescerà. Guarda il singolo cuore. Dio ha un occhio specifico, guarda nel profondo, perché tu sei speciale, perché ciascuno di noi è diverso e Dio sa che dalla crescita di ciascuno di noi oggi la Chiesa crescerà. E io voglio crescere oggi. Vogliamo crescere? A posto, allora siamo nel posto giusto e diremo le cose giuste. Tante volte ho provato a sfidarmi nel crescere, nel provare a andare un passo avanti, però è stato difficile. È difficile cercare di andare oltre le difficoltà. Non è facile dire: ok, oggi sono un passo avanti rispetto a dove ero ieri, ma noi ce la possiamo fare. Tu ce la puoi fare, tu sei pronto per farlo, non ti manca niente. Non c'è niente che ti manca per dire: ok, questa difficoltà la posso superare. Non c'è niente che ti manca, anche se abbiamo fallito nella nostra vita, nessuno è perfetto. Tutti quanti falliamo, tutti quanti pecchiamo. Nessuno può dire: io sto crescendo ogni giorno di più e sono il più forte. No, non esiste questo. Solo al cinema, quando vai a vedere gli Avengers, quindi i supereroi, loro ogni giorno vincono, sono forti, no? Così. Noi non siamo supereroi, noi siamo esseri umani. Però abbiamo un supereroe che è Dio in noi e Lui deve vincere in noi. Ecco come facciamo a crescere. Non dobbiamo sforzarci noi con le nostre forze di dire: io ce la posso fare, io posso diventare più perfetto di come sono. No, quello che dobbiamo fare è permettere a Dio di essere perfetto in noi, non limitare quello che Lui vuole fare in noi. E sapete, è una cosa che noi possiamo fare benissimo. Perché? Perché nella Bibbia ci sono un sacco di esempi di persone, esseri umani, esattamente, come noi, come me e come te, che ce l'hanno fatta. Quindi questo ci incoraggia. Quindi dai una pacca alla persona accanto a te e digli: ce la puoi fare anche tu. Nella sua predica il pastore, quella della visione di gennaio, ha preso in esame, ha guardato un episodio della Bibbia, iniziato da quell'episodio, dall'episodio di Elia ed Eliseo. E questi due personaggi sono meravigliosi perché vivono una vita spesa di gloria in gloria. erano due esseri umani con due occhi, due braccia, due gambe, un cuore, esattamente come tu sei, esattamente come io sono, come noi siamo, erano come noi. Hanno vissuto una vita personale spessa di gloria in gloria, ma loro sono andati oltre. Hanno vissuto anche un rapporto che andava di gloria in gloria, in quanto quello che ha fatto Elia è stato glorioso, ma quello che ha fatto Eliseo è stato ancora più glorioso di quello che aveva fatto Elia, e questo è bellissimo. Il pastore si è focalizzato proprio su questo, sul parlarci di quanto questo passaggio di consegne fosse glorioso e portasse un rapporto a passare da una gloria ad un'altra. Invece io oggi mi sono soffermato a vedere come questi due personaggi, come queste due persone, sono entrati in contatto. Quindi diciamo che di solito le serie, le puntate vanno una dopo l'altra. Io è come se sono andato alla puntata precedente, ok? Ci siamo? Allora vediamo la puntata precedente di questa storia qua. E la leggiamo insieme in 1 Re, capitolo 19, dal 19 al 21. Questi sono i versi in cui Elia incontra Eliseo. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con 12 paia di buoi, con 12 paia arriva davanti a sé, ed egli stesso guidava il 12° paio. Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello. Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse: ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò. Elia gli rispose: va e torna, ma pensa a quel che ti ho fatto. Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio. Con la legna dei gioghi dei buoi fece cuocere la carne e la diede alla gente, che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Questo è l'episodio in cui proprio Elia ed Eliseo entrano in contatto, si conoscono per la prima volta. E la prima cosa che mi ha colpito di questa storia, immediatamente, non neanche dopo averla riletta, proprio leggendola come prima volta, è questa. Questo episodio si sarà svolto nell'arco di poche ore. Sicuramente non sono passati mesi, giorni, anni in cui Eliseo si è preso tempo per capire: ok, ma cosa devo fare della mia vita? Dove devo direzionare la mia vita? Devo scegliere questo o devo scegliere quello? Eliseo ha fatto una scelta. E oggi è il giorno in cui ciascuno di noi può fare una scelta. Oggi, adesso, oggi, stamattina, noi vogliamo uscire da questo posto, anche se siamo venuti con pesi, preoccupazioni, ansie, peccati, vogliamo uscire da questo posto avendo messo un passo verso la gloria di Dio, essendo passati dalla gloria con cui siamo entrati ad una gloria successiva. Non serve passare tempo a pensare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. In fondo lo sappiamo, la parola di Dio è chiara. Noi sappiamo quello che è giusto e quello che è sbagliato. Noi lo sappiamo quello che dobbiamo lasciare e quello che dobbiamo tenere. Noi lo sappiamo, e stamattina proprio, senza pensare a domani, a dopodomani, noi vogliamo uscire da questo posto con uno spirito nuovo. Non avendo abbandonato tutto quello che ci siamo portati dentro, ma essendo passati dalla condizione in cui siamo almeno un passo avanti. Perché oggi vogliamo scegliere, ora vogliamo scegliere, e possiamo scegliere. E fare le scelte giuste è già passare di gloria in gloria. Questo è quello che ha fatto Eliseo. Eliseo ha fatto la scelta giusta. Nell'arco di pochi minuti si è trovato a passare dal fare una cosa ad un'altra. Nell'arco di pochissimo. Non ha detto a Elia: scusami, ci voglio pensare un attimo su, voglio meditare, ci voglio pregare un attimo con Dio, poi scriverò delle pagine di testi, dovrò analizzare la Bibbia per vedere se quello che tu mi stai chiedendo è biblico, e poi, solo dopo, saprò darti la risposta. Nel frattempo Elia era stato rapito già dallo spirito, se n'era andato, e Eliseo stava là con i buoi. Questo noi non lo possiamo fare, non possiamo perdere tempo Non possiamo perderlo, perché il tempo è un dono che Dio ci fa e noi dobbiamo investirlo nel migliore dei modi, non facendo cose pratiche. Io non sto parlando di opere, cioè non serve che noi operiamo cose pratiche. Va bene tagliare le unghie, Jesus Revolution, come ha detto Gianluca, va benissimo, ma io sto parlando di scelte che muovono la nostra vita, quindi scelte nella mente, scelte nello spirito, nel cuore, che trasformano poi la nostra vita. Questo è scegliere, e oggi noi possiamo scegliere. A me piace, quando leggo la Bibbia, soffermarmi e entrare in profondità, cercare, scavare, vedere che cosa viene fuori da questi versi. Ecco perché dico sempre, secondo me è importante leggere la Bibbia, però leggerla minuziosamente, attentamente, soffermarsi su ogni frase, perché dietro ogni frase, dietro ogni parola, c'è qualcosa che ti può portare, che ti può trasformare, che può cambiare qualcosa in te. E questo l'ho appreso seguendo i percorsi. Quindi, se non hai ancora fatto il percorso 1, percorso 2, percorso 3, sappi che domani 11 inizierà il percorso 1. Quindi, se sei qui per la prima volta, davvero, e sei incuriosito, vuoi sapere cosa è la Bibbia, chi è Gesù, come funziona la fede, come funzionano queste cose, rivolgiti a Noemi, che è qui in prima fila, maglioncino verde, cappello, o vai al punto info, perché ci sono delle cose che puoi scoprire che sono meravigliose per muovere i tuoi passi e crescere di gloria in gloria. Se hai fatto il percorso 1, c'è il percorso 2, se hai fatto il percorso 2, c'è il percorso 3, e ci saranno altri percorsi che la Chiesa forma, crea per farci crescere di gloria in gloria. E non è importante quanti anni hai, che cosa hai fatto nella tua vita, che cosa hai fatto per la Chiesa, se sei già un ministro di Chiesa o se ci sei entrato adesso. È importante che tu lo faccia, perché questo ti aiuta a passare di gloria in gloria, sempre. E noi questo è quello che vogliamo fare, perché la Chiesa cresce secondo quella che è la misura in cui noi cresciamo con Dio. Ci siamo? Dille alla persona accanto a te, tu lo puoi fare. Scusate. diglielo, che non ho visto che tutti se lo dicevano. Diglielo. Quando dicevo di entrare nella Bibbia e di scavare, intendevo proprio il fermarsi ad analizzare quel paragrafetto della Bibbia che vi ho fatto vedere e cercare che cosa c'era nascosto dietro. E ho tirato fuori tre spunti, tre cose che mi sono saltate all'occhio quasi immediatamente. La prima è questa: ho notato questo particolare, no? Mi sono fermato a guardare la figura di Elia, quindi il profeta che Elia era. Elia, prima di arrivare a questo punto qui della Bibbia, aveva fatto cose già molto molto importanti, nel senso aveva operato miracoli, tra cui aveva resuscitato un bambino. Lui era lì, aveva pregato Dio e Dio aveva resuscitato un bambino. Aveva vissuto un miracolo sul Monte Carmelo, dove lui da una parte e altri profeti di altri dei dall'altra hanno vissuto una sorta di challenge, di sfida, per vedere quale fosse il vero Signore tra Dio e il Signore, Baal e Astarte. Cioè, c'è stata questa sfida dove hanno preso un toro, lo hanno sacrificato entrambi, lo hanno messo su un altare e poi hanno detto: ora pregheremo. Io, Elia, il mio Dio, e voi il vostro. Il Dio che appiccherà, che accenderà, che consumerà il sacrificio, che lo brucerà, sarà il Signore. E quindi questa sfida poi, chiaramente, se noi siamo qua, sappiamo qual è la verità. Quelli lì sono stati a pregare, a gridare, a fare cose, però non è successo niente. Elia invece ci ha buttato acqua sul sacrificio, fino a quando l'acqua era ovunque, ha pregato e il Signore ha bruciato, Dio ha bruciato ogni cosa, pure le pietre ha bruciato, proprio per far vedere che Dio è il Signore, e Dio è il Signore della tua vita. E come ha bruciato quel sacrificio, vuole bruciare ogni cosa nella nostra vita, per farsi vedere da noi e dalle persone che sono attorno a noi. Questo era Elia. Elia è andato da Eliseo e gli ha buttato il mantello addosso, ed Eliseo ha detto: oh, ma ha scelto me. Cioè, lui vuole che io lo segua. Lui vuole che io segua lui. Perché? Perché il Signore aveva detto a Elia, va e di a Eliseo che lui sarà il tuo successore. Quindi ungilo quale tuo successore. Quindi Elia, sottomesso alla parola di Dio, va da Eliseo e fa tutto questo. E arriviamo all'episodio che vi ho letto. Quindi Eliseo è stato scelto. La cosa che mi sorprende è che nella Bibbia non si parla di Eliseo prima di questo episodio. Cioè noi non sappiamo se questo ragazzo parlava col Signore, se credeva nel Signore, che vita conducesse. Noi non lo sappiamo, sappiamo solo che quel giorno lui stava arando la terra, stava lavorando. Solo questo sappiamo di Eliseo, non sappiamo nient'altro. E la cosa che mi ha colpito, la domanda che mi sono fatto è, Signore, ma cioè, non penso che non c'erano sacerdoti, profeti, che tu potevi far ungere come successori di Elia. Perché Eliseo? Riportato ai tempi nostri, è come se il pastore dicesse, ok, in quest'anno vogliamo fondare una nuova chiesa. Ok, tutti quanti ci aspetteremmo magari che uno della squadra pastorale, un leader, una persona che è già attiva vada a fondare una nuova chiesa, no? Razionalmente noi penseremmo a questo. E invece il pastore viene il venerdì sera negli Upside Down, che è un incontro che abbiamo per tutti i giovani dai 14 ai 28 anni, ogni venerdì inizia alle 8, e dice, ok, tu fonderai una nuova chiesa. A me questa cosa mi ha sconvolto, cioè è incredibile pensare che Elia, guidato dallo Spirito di Dio, da Dio, va a ungere un ragazzo per dargli questa eredità. Comunque Elia era un profeta forte, cioè ha fatto cose meravigliose, ha fatto cose potenti. Forse poteva essere un peso. Eppure, sapete una cosa, Elia non conosceva Eliseo. I genitori di Eliseo potevano conoscere Eliseo. Sì, Eliseo poteva conoscere se stesso, ma chi conosceva meglio di tutti Eliseo era Dio, perché Eliseo era un eletto di Dio. Eletto, che parola! E io sono eletto. C'è un verso della Bibbia che dice, ma voi siete insieme, ma voi siete una stirpe, un sacerdozio, una gente, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa. Noi siamo eletti. Qui non ci sono ruoli, non c'è chi è di più, non c'è chi è di meno. Tu, se sei qui oggi, è perché sei eletto da Dio. E questa elezione non è perché rimaniamo in queste quattro mura. C'è un perché. Lo proiettiamo questo verso, così lo possiamo leggere bene. E 1 Pietro 2,9. Noi siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Perché? Proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla luce, alla sua luce meravigliosa. Noi siamo chiamati eletti perché? Perché dobbiamo proclamare e tirare nuove persone, non noi, ma Dio in noi, dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Sei un eletto, ma non sei un eletto per rimanere eletto solo tu. Sei un eletto generoso che vuole portare a questo stato tutte le persone che sono attorno a te. Questo è quello che Eliseo ha vissuto. Eliseo era un eletto da parte di Dio, perché Dio sapeva che Eliseo non era tirchio, non era fermo, non sarebbe rimasto con quel bene stretto a lui, ma perché Eliseo probabilmente aveva un cuore generoso, un cuore che voleva vedere davvero il regno di Dio avanzare e crescere di gloria in gloria. Tu sei eletto, dillo alla persona accanto a te. Tu sei eletto. sei eletto. Il titolo del messaggio che oggi sto dando è proprio questo. Anche io, sì, anche tu, anche noi siamo eletti da Dio proprio perché possiamo proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, perché noi siamo una gente santa, noi siamo un popolo, noi siamo. Non pensare che quello che hai deve rimanere tra queste quattro mura. La domenica nasce non per rimanere un incontro di domenica dove noi ci raggruppiamo come famiglia, ma perché noi possiamo vederci, ricaricarci e andare fuori a proclamare queste verità, le verità che ascoltiamo. Io non sono qui, non mi sono preparato una settimana, stamattina mi sono svegliata alle 6, non perché ero agitato, ma perché voglio dare il meglio alla mia chiesa. Non perché posso colpire noi con queste parole, ma perché io voglio muovere, voglio che Dio si muova attraverso di noi per andare lì fuori e dire ok, io voglio che questa sala diventi troppo piccola. Voglio 3 incontri la domenica. Io sogno 3 incontri la domenica. A che ora lo vogliamo fare? Verso le 5, eh? Anto, che dici? Allora, io sogno un terzo incontro alle 5, perché le persone che andremo ad impattare proclamando le virtù di Dio riempiranno un'altra volta questa sala. Questo è il motivo per cui noi siamo qui. Eliseo era eletto e anche tu sei eletto. Ed è bellissima sta cosa, perché di Eliseo non se ne parla. Non se ne parla nella Bibbia. Noi siamo eletti. Noi siamo eletti. La seconda cosa che mi ha fatto riflettere su questa storia, su questo paragrafetto, che poi è curioso perché da un così, più o meno, mo dipende dal formato di Bibbia che abbiamo a casa, più o meno sulla mia è così, questi versi sono 5 righi, 6 diciamo. Da 6 righi io ho tirato fuori non solo questo foglio, perché al P3 ci hanno spiegato pure come si fa questa cosa, quindi io ve lo consiglio. Bellissimo il P3. Chi non ha mai fatto il P3? Percorso 3. Facciamolo, è troppo bello, ragazzi. Chiesa è meraviglioso. Non perché Noemi mi sta davanti, ma perché è veramente bellissimo. Io e Nella abbiamo veramente potuto scoprire cose meravigliose, trasmetterle anche agli Upside Down. E la Chiesa cresce di gloria in gloria proprio per questo. Sapete, da questi paragrafetti ho tratto fuori un'altra cosa. Ho pensato a come Eliseo fosse lì, no? Che arava con i suoi buoi, ed era lì, arriva Elia, boom, lo colpisce, cioè lo copre col mantello. E Eliseo, come dicevo prima, non ci pensa, subito, prende una scelta, rapidamente, io lo ammiro, perché Eliseo è stato in grado di, in un attimo, di lasciare qualcosa di certo, di sicuro, di ordinario. Cioè Eliseo stava conducendo una vita umile, dignitosa, lavorava, sicuramente, non lo sappiamo, viveva con la sua famiglia, una famiglia magari bella, la possiamo immaginare, non c'è scritto, però possiamo immaginarla così. Eppure in un attimo Eliseo sceglie di abbandonare ogni cosa, lasciare l'ordinario, perché ha visto lungo in quello che Elia gli stava proponendo e ha visto lo straordinario. Non dobbiamo pensare che Eliseo sapesse già quello che stava succedendo, perché non c'è scritto. Eliseo non sapeva niente di quello che avrebbe fatto con Elia, conosceva Elia e ha immaginato, ha messo in azione la sua fede per credere che quello che Elia aveva fatto era meraviglioso, e stando con Elia anche lui avrebbe fatto cose meravigliose. Non ha avuto paura di lasciare la certezza sulla quale la sua vita si posava per andare verso un qualcosa di incerto ma di straordinario. Tante volte noi passiamo la nostra vita abituati a vivere nelle nostre cose ordinarie, nei nostri nelle nostre abitudini, nelle nostre relazioni, nei nostri peccati, nei nostri atteggiamenti, in quello che facciamo di ordinario. E questo, in un modo o nell'altro, ci porta a rimanere fermi. Ma noi possiamo e dobbiamo sfidarci verso lo straordinario, perché lo straordinario ti porta ad andare di gloria in gloria. Forse abbracciamo troppo stretto qualcosa che ci dà pace, ci fa stare bene. Eliseo sapeva quello che doveva fare. Arare, basta. Quando non sai quello che devi fare, e dici, io mi sveglio la mattina, e che faccio? Eliseo poteva pensare a questo, ma non ha avuto paura di abbandonare l'ordinario per andare verso lo straordinario. Spesso mi capita, anche a me, no? Di fare delle cose così tanto per abitudine e poi mi rendo conto che, ma questa cosa, Gesù l'avrebbe fatta in questo modo? Magari no. Quando io comprendo questo, capisco che questa cosa che è stata ordinaria per me fino a questo giorno, dal giorno dopo non lo deve essere più. La devo togliere, la devo eliminare, perché io voglio passare da questa gloria alla gloria successiva. E noi sappiamo che nella nostra vita ci sono cose che facciamo per abitudine, cose ordinarie, che ci stanno impedendo di vedere lo straordinario. E a volte queste cose ordinarie sono i nostri peccati, anche quelli piccoli. Tu dici, ma io sono qui da 13 anni, da 5 anni, da 3 mesi, da 40 anni e ho sempre, non è che critico, però ogni tanto non mi va bene proprio quella cosa che si fa magari in chiesa, o non mi va bene che mio marito si comporta in questo modo e ne parlo con qualcun altro, cioè non sto facendo niente di male, sto solo esponendo la mia opinione. È sottile la linea, però c'è. Oppure, non lo so, io vengo in chiesa da tanti anni, però non riesco proprio a smettere di fumare. Oppure guardo cose che non onorano il mio matrimonio su internet. Guardo dei video, delle foto, anche per i ragazzi che non sono sposati. Faccio cose che non onorano il mio matrimonio. Non sono un uomo integro, una donna integra. Però è una cosa che faccio una volta al mese. Ogni tanto. Non succede sempre. Quello sta impedendo a noi, a te e a me, di vedere lo straordinario che c'è oltre quello. Perché c'è uno straordinario che ti sta aspettando. Perché oltre i tuoi peccati ordinari, ci dovrebbe essere una slide. Abbandoniamo le nostre situazioni di peccato ordinario per buttarci nelle situazioni straordinarie. Questo è il secondo punto. Quindi tu sei eletto, e sei eletto perché tu puoi abbandonare le situazioni di peccato ordinario per buttarti nelle situazioni straordinarie. E quando dico straordinario, dico che c'è qualcosa di meraviglioso che ti sta aspettando. Il terzo ed ultimo punto, e poi passeremo a qualcosa di pratico, è questo. Il terzo ed ultimo punto è, ok, Eliseo si è trovato in questa circostanza, come abbiamo letto, in cui è arrivato Elia, lo ha chiamato. E c'è una cosa che mi ha colpito, che è scritta sia in questo verso, ma anche nei versi precedenti a questo, nel verso 16. Noi abbiamo letto dal 19 al 21. C'è anche il verso 16. Eliseo era lì con 24 buoi. Probabilmente questi buoi forse non erano di sua proprietà, no? Forse appartenevano alla sua famiglia. Probabilmente quella era l'impresa di famiglia, possiamo chiamarla così? Chiamiamola così. Eliseo stava dirigendo l'impresa di famiglia quando ad un tratto un signore, uno dei personaggi più famosi dell'epoca, va lì, boom, e lo chiama. Eliseo lascia tutto e lo segue. Eliseo è stato disposto a lasciare la sua impresa di famiglia per seguire questo Elia. E nei versi precedenti c'è scritto questo. Questo mi è saltato all'occhio. Qui è il Signore, nei righi sopra, che parla proprio ad Elia e gli spiega chi doveva ungere come suo successore. Gli dice, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meola, come profeta al suo posto. E poi questo è quello che abbiamo letto adesso, quindi Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat. E io ho detto, sì, è vero. Non è inusuale, diciamo, che per identificare dei personaggi della Bibbia venga utilizzato anche il nome, quindi la discendenza, la dinastia, il padre o il luogo di nascita o altri aggettivi che identificassero le persone. Sicuramente qui il Signore, per identificare Eliseo, non sappiamo se Eliseo era un nome famoso in quel momento, gli dice vai dal figlio di Safat da Abel-Meola, gli dà un'indicazione specifica. E poi lì riprende Eliseo, il figlio di Safat, per darci proprio il senso che era quell'Eliseo che doveva essere unto. Ma quello che io ho scoperto è una cosa curiosa, è il significato del nome Safat. Sapete cosa vuol dire Safat? Safat significa egli giudica. Non sappiamo niente di quest'uomo. Noi non sappiamo che cosa aveva fatto questo Safat. Ma il Signore vuole che noi sappiamo solo questo di quest'uomo, che egli giudica. Ora voi immaginate questo ragazzo che stava guidando la sua impresa di famiglia, sapendo che suo padre era un padre che poneva giudizio, che giudicava, che avrebbe giudicato quello che forse Elia lo stava chiamando a fare. Voi immaginate quanto deve essere stato, sembra semplice perché è letto in un paragrafetto così, ma se tu ti fermi la Bibbia ti rivela cose meravigliose. Safat, egli giudica, voi immaginate suo figlio che va da suo padre, la mattina esce per andare a lavorare, va da suo padre e gli dice senti, io sto lasciando tutto perché seguo Elia, papà. E Safat che giudica. Voi immaginate qual è stata, quale potrebbe essere stata la reazione di Safat. Ma pensate che lo ha fermato? Ha fermato Eliseo dal fare quello che doveva fare? No. Ci sono delle prove che ti aspettano, che ci aspettano, per passare dalla gloria in cui siamo oggi alla gloria in cui dobbiamo entrare. Ci sono delle prove che dovremo affrontare, difficili, come quella che Eliseo ha affrontato. Ma Eliseo è diventato uno dei più grandi profeti che siano mai esistiti sulla faccia della terra, perché ha scelto di mettere Dio al primo posto, non avendo paura delle prove che aveva davanti, non pensando all'ordinario, non rimanendo attaccato al suo ordinario, ma buttandosi nello straordinario, perché lui sapeva che era stato eletto da Dio. E questo è quello che noi oggi andremo a fare. Quindi, concludendo, io vorrei vivere un momento di preghiera. Non perderemo troppo tempo a fare questo momento di preghiera, perché se vogliamo uscire da questo posto di gloria in gloria, non è importante meditarlo, pensarlo, è prendere una scelta. Ciascuno di noi sicuramente vive il peccato in qualcosa, vive un compromesso in qualcosa, nelle relazioni, negli atteggiamenti, nei pensieri, non lo so, in qualcosa. Ciascuno di noi lo sa. Ci sono 4 passi che dobbiamo seguire per eliminare tutto questo e passare alla gloria successiva che ci aspetta. Identificalo. Correggilo, eliminalo e cresci. Ora, sapete io quante volte ho fatto questi 4 passi? Beh, nella mia vita forse ci sarei riuscito con un paio di cose. Nelle altre sto ancora combattendo. Non sono perfetto. Non sono perfetto. Nessuno di noi lo è. Però siamo qua oggi perché vogliamo crescere di gloria in gloria e vogliamo andare avanti. E predicare questo messaggio non è facile per me, perché è stata una settimana difficile, difficilissima. Però io voglio che noi cresciamo di gloria in gloria, perché la Chiesa di Dio è chiamata a questo. Tu sei chiamato a questo. E uscirai da questo posto oggi, non dico avendo eseguito tutti e 4 i passi, ma anche facendo solo il primo passo, quello di identificare qualcosa che tu vuoi togliere, la sua Chiesa sarà andata avanti, di gloria in gloria. Quindi voglio invitare la squadra pastorale a venire qui davanti, rapidamente, senza timidezza. E se vuoi oggi scegliere di passare da una gloria precedente ad una gloria futura, vogliamo pregare insieme. Non perché ci siano dei superuomini qui, ma perché è biblico questo. Vogliamo pregare insieme e passare dalla gloria in cui siamo alle 11:45 del 10 marzo 2019 a quella che sarà la gloria futura che vivremo tra 10 minuti. Questo è essere pratici, questo è andare avanti, combattere. Lo vogliamo fare? Facciamolo.